radio pure scendere le scale. Da sempre la delusione è mia rivale, ma oggi c'ho i sassi nello stivale. Da taxi che non arriva in orario, traffico che è un calvario, perciò bestemmio tutti i santi sul calendario. La faccia sorridente di uno stronzo su quella copertina del quotidiano in vetrina dal giornalaio. Ma poi chiama lei, forse stasera ci vediamo, dice, e io passo l'inferno. Beatrice sembrerà piccolo in superficie, ma un motivo in più per essere felice, che tanto il mio cuore è una pista da ballo, le piace perché c'è una vista da sballo. Il bello è che se potessi rifarlo, rifare ogni volta l'ennesimo sbaglio. E allora mi tiro su e mi annoio aspettando sera, poi lei mi chiama e si inventa una scusa che forse è vera. Quindi alla fine, da solo, finito ste due cime, ma pure finito le cartine. Bastava un tiro di cannone per non stare giù, una partita di pallone per tirarci su. E invece adesso siamo grandi, sono passati gli anni, cerchiamo la pace dove non c'è più. Bastava un tiro di cannone per non stare giù, una partita di pallone per tirarci su. E invece adesso siamo grandi, sono passati gli anni, cerchiamo la pace dove non c'è più. Per sta vita non c'è mica un manuale, magari libretto di istruzione o modo d'uso, molto meglio se fossi un tipo normale, che crede alle illusioni un po' ottuso. E invece sto impara come un intruso, vedo che non c'è luce, mi sveglio un bel po' confuso. Ricordo che era l'alba che ne giravamo un'altra, ma ero troppo fuso. Ora alle sette bestemmi ancora c'è un occhio chiuso, stomaco vuoto proprio come il frigo. Ordino a domicilio pure chiamo qualche amico. Ora che sto sul ciglio, tra l'essere pentito e la modalità ripiglio, la notte porta consiglio, tempo di uno squillo. Alle nove, noi nove in camera, chi strappa chi stappa la grappa e il liquore blatera. Tossici metodici fumano con gli alcolici fino alle 12 con la play un 40 pollici. Fra, anche oggi ho riperso il treno, giorni buttati al cielo, la vita mi tira scemo. Volevo stare sereno come in un pezzo di Game On, ma il disagio non c'è fine ed ho pure finito le cartine. Bastava un tiro di cannone per non stare giù, una partita di pallone per tirarci su. E invece adesso siamo grandi, sono passati gli anni, cerchiamo la pace dove non c'è più. Bastava un tiro di cannone per non stare giù, una partita di pallone per tirarci su. E invece adesso siamo grandi, sono passati gli anni, cerchiamo la pace dove non c'è più. Oggi come grigio, apro gli occhi quattro pomeriggio. Ieri drink competition, very spliff gold edition. Svegli tutta la notte, priva star, niente a colazione, fatto cappuccino bar. Un disagio, l'auto che non parte, datemi un calmante. Ho lo stomaco di ferro, sto come Commander. Ovviamente sempre con le palle più girate, turno di notte, moglie, figli, nonno e pure il cane. Dentro al traffico a Napoli e Woodstock, era meglio andare a piedi fra più sport. Per il centro non si può camminare, pare che ci siamo bloccati, cancellare tangenziale. Finalmente ci muoviamo, esco scendo senza chiavi dell'ufficio. Che giornata, wow, m'hanno ucciso. È una vita che purtroppo non volevo fare, è regolare, c'è pure fuori temporale. Mal di testa, sai che faccio? Torno a casa, oggi festa, affanculo il mondo, mi rimetto a letto. Faccio le scale, accendino, sigarette, filtro con le cime. Cazzo, ho finito tutte le cartine. Bastava un tiro di cannone per non stare giù, una partita di pallone per tirarci su. E invece adesso siamo grandi, sono passati gli anni, cerchiamo la pace dove non c'è più. Bastava un tiro di cannone per non stare giù, una partita di pallone per tirarci su. E invece adesso siamo grandi, sono passati gli anni, cerchiamo la pace dove non c'è più.